Carissimi fratelli e sorelle, buonasera. Proclamiamo nuovamente il credo o simbolo degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Questa sera ci soffermiamo sull'affermazione del nostro credo: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Io vorrei che il Signore mi aiutasse per davvero a rimuovere dalla mia testa e forse anche dalla vostra tutte quelle immagini di giudizio, di purgatorio, di inferno, che non sono, secondo la verità fondamentale della nostra fede, che è questa: Dio è amore. Tutto quello che non è amore non è da Dio, Dio non lo vuole, Dio non lo fa. Ed ecco, prendo spunto dalla liturgia, da un ritornello di un salmo responsoriale che abbiamo sentito in questi giorni. Il tuo giudizio, Signore, è amore che salva. Allora, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Cos'è questo giudizio di Dio? La Chiesa, la liturgia ci dice: il tuo giudizio, Signore, è amore che salva. Incominciamo a dire allora una cosa positiva, bella, consolante, non inventata ad arte perché ci fa comodo, ma perché Dio ha detto così, perché la sua parola dice così. Ripeto, il giudizio del Signore è Dio amore che ci salva. Quando si parla del giudizio universale, forse si dimentica quello che ha detto Gesù concludendo la sua vita sulla croce, tirando un po' le somme, dando una valutazione, dando un giudizio su quello che era accaduto. Ricordo due frasi prese dalla bocca di Gesù secondo il Vangelo di Luca. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Ecco il giudizio di Gesù su tutti, compresi i malfattori, i crocifissori. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Poi c'è un'altra frase consolantissima, si rivolge a un brigatista, un rivoluzionario che era crocifisso lì accanto a lui e che rappresenta tutti noi, quello tra l'altro è anche il nostro santo protettore, perché siamo tutti dei ladroni, dei lazzaroni. Oggi sarai con me in paradiso. Questo secondo me è il giudizio di Cristo, la vera sintesi del giudizio: perdono per tutti, paradiso per i briganti che al momento della morte si rivolgono a Cristo e dicono: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Allora diciamo che il cristianesimo non è una faccenda privata tra Dio e il singolo uomo e la singola donna, sono affari nostri, affari miei, no. La parabola del giudizio che noi troviamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 25 ci insegna che Gesù Cristo si identifica con la causa, la situazione di tutti gli uomini. Tutto avviene nel contesto di un confronto generale. Gesù Cristo non dirà: venite qui uno alla volta, facciamo i nostri conti, i nostri affari, vi do le ricevute. No, no. Saremo tutti insieme perché tutti insieme ci saremmo aiutati facendo del bene o ci saremmo anche in qualche modo danneggiati facendoci del male. E E quindi io non sono solo io, esisto perché dei genitori mi hanno dato una certa vita con i condizionamenti, ma non solo con quelli, perché io ho incontrato te o non ho incontrato un altro, per cui tutti noi siamo corresponsabili, siamo in un tessuto intricatissimo di responsabilità, per cui tutti abbiamo meriti e colpe che non sono solo nostri, abbiamo ricevuto tanto e abbiamo anche fatto qualche guaio. A dire la verità, la scrittura non ricorda mai direttamente il giudizio particolare, individuale della persona, mentre leggendo solo il Nuovo Testamento, la scrittura parla più di 70 volte del giudizio universale. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 16, c'è, per esempio, la parabola del cosiddetto ricco epulone, che vuol dire magione, ingordo, il ricco cattivo e il povero Lazzaro. E lì dice che appena morto Lazzaro andò in seno ad Abramo, ossia nella salvezza del paradiso, e il ricco andò nelle fiamme, subito, immediatamente, non dopo il giudizio universale finale. Anche la promessa fatta da Gesù al ladrone sulla croce, di cui abbiamo appena parlato, in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso, dice appunto che subito dopo la morte uno va a collocarsi o con Dio o lontano da Dio, a secondo delle scelte che ha fatto. Quindi queste frasi del Vangelo ci portano a credere che c'è una retribuzione, un collocamento nella gioia del paradiso o nelle pene dell'inferno prima del giudizio finale, al momento della morte. In tale senso si è espressa anche la dottrina della Chiesa, l'insegnamento della Chiesa. Allora incominciamo un po' a parlare del nostro incontro con Dio secondo i Vangeli e non secondo i nostri terrori o anche secondo qualche ricordo, forse di catechesi o di parole dette da stolti, terrorizzati e terrorizzatori a loro volta. Il nostro incontro con Dio non avrà nulla a che vedere con una procedura di accusa, di difesa, di sentenza, come quando andiamo in un tribunale umano. Il nostro incontro con Dio non sarà neanche un rendiconto particolareggiato, documentato, di chi deve presentare un bilancio, si va a vedere fino alla lira. No. Di più, non ci troveremo a faccia con un Dio irritato, scrupolosamente documentato sui nostri misfatti per poterceli gettare violentemente in faccia, senza dimenticarne neanche uno, perché Dio ricorda tutto. No, tutto questo non è amore. Non ha nulla a che vedere con Dio, perché Dio è amore. E allora il nostro incontro, giorno del giudizio, sarà un incontro d'amore con un Dio che è solamente amore. Quindi questo giudizio va inteso come un attesissimo incontro tra due amici, diciamo di più, come l'incontro di un bambino con il suo papà, di uno che è fratello del giudice, Cristo, che è diventato uomo, e mi ha manifestato un amore sconfinato, infinito, morendo su una croce, su un patibolo, perché io non andassi perduto. Quindi l'incontro con Dio il giorno del giudizio non ha nulla di terribile e ha tutto di stupendamente bello. È l'incontro con l'amore, con la A maiuscola, con l'amore in persona, con la tenerezza assoluta, perché Dio è tenerezza assoluta. È l'immersione totale nell'ampiezza, nella lunghezza, nell'altezza e profondità dell'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza e ci ricolma di tutta la pienezza di Dio. Ho letto dalla lettera di Paolo agli Efesini. Qualcuno dirà, ma quando io vado di là, Dio dirà, nella vita hai fatto tanti peccati, hai tanti debiti, quindi facciamo i conti. parlando così a ruota libera, probabilmente rischierò di dire delle parole improprie. Parlo ai genitori, ma tutti possono capire. Voi avete generato un figlio, più figli. Se voi, la vigilia del matrimonio di vostro figlio, diceste: siediti qui al tavolino che dobbiamo fare i conti prima che te ne vada di casa, allora tu ci sei costato l'ecografia quando eri ancora nell'utero di tua madre, poi tua madre è stata ferma dei mesi per non perderti, poi ricovero all'ospedale per il parto, poi tante visite, poi cominciamo, ci sei costato tanto in pannolini, ci sei costato tanto in latte, in questo, in quello, e tua madre è stata a casa dal lavoro per allevare te e via, e poi dopo tanto mangiare, tanto bere, tanti libri di scuola, tante volte ti ho accompagnato in macchina, ho fatto benzina, tot tot tot tot, per farla breve, dice: guarda, tu mi sei costato da quando sei nato ad oggi, diciamo 200 milioni, tanto per fare una cifra. Che cosa dovrebbe rispondere tuo figlio a te, padre o madre? Che gli fai i conteggi di tutto quello che hai speso per lui, dei suoi debiti nei tuoi confronti? Probabilmente il figlio reagirebbe in una forma violenta e ti offenderebbe e farebbe male, ma avrebbe anche le sue buone ragioni. Diciamocelo fuori dai denti: sto figlio l'hai fatto per amore? Lo hai mantenuto, allevato, educato, fatto studiare per amore? Sì. Allora, quando parte per uscire di casa per sposarsi, non solo non gli presenti la lista dei debiti di quanto ti è costato, ma addirittura tiri fuori gli ultimi avanzi che hai sul conto in banca per preparargli l'appartamento, il mobilio, pagare il pranzo di notte, la cerimonia, il viaggio di notte. Ci penso io, sono il tuo papà, mi offendi se tu non mi lasci fare, spendo fino a indebitarmi perché io ti amo. Se questo è l'atteggiamento di un padre e di una madre di questo mondo, di cui Gesù nel Vangelo, e non offendetevi, ha detto: se voi genitori che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro Dio darà cose buone, darà la sua vita, lo Spirito Santo, il paradiso ai suoi figlioli che siamo noi. Ditemi, se questi atteggiamenti sarebbero disdicevoli, sarebbero delle carognate fatte da un padre e da una madre di questo mondo, cose vergognose e umilianti, perché vogliamo rifilare a Dio questi atteggiamenti indecenti? Dio, quando arrivo su, mi dirà: mi sei costato tanto, e mi fa la lista di tutti i soldini che ha speso, di tutte le preoccupazioni, e alla fine dice: o paghi o ti sbatto fuori. Non lo fanno neanche i genitori di questo mondo che sono cattivi. Perché dobbiamo dire che queste cose le fa il Padre Eterno? Di più, c'è scritto nella Bibbia, Salmo 102, quindi Antico Testamento, se poi prendiamo il Vangelo, e qui è tutto da rifare il nostro modo di pensare, è scritto che Dio perdona e quando perdona dimentica, ossia non tiene più conto, non tiene più contabilità. È scritto in questo Salmo 102: Dio non continua a contestare e non ricorda per sempre le nostre colpe, le dimentica. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe. È come quando si lava un bambino, si prende l'acqua sporca e la si butta più lontano possibile e non la si deve più né vedere né incontrare. Lo sporco l'ho buttato via, non c'è più. E allora, è vero che Dio perdona? Sì, ci ha dato il comandamento nel Vangelo: perdonate 70 volte 7, ossia sempre, perché io perdono sempre, perché Dio ci ha sempre dato l'esempio per primo. Ebbene, guardate che nel perdono c'è insito necessariamente il dovere di dimenticare. Diversamente non si perdona davvero. Cito l'esempio di due santi. I santi vanno conosciuti soprattutto per le parti più vere e più genuine della loro vita evangelica. Bernardetta Soubirous di Lourdes è morta, mi sembra, verso i 35 anni. Era diventata suora gli ultimi tempi della sua vita, una consorella le dice: ti ricordi quanto ti hanno fatto soffrire quando dicevi di vedere la Madonna Massabielle? E hai avuto contro tutti, le autorità civili, anche il parroco, ti hanno fatto anche paura, ti hanno anche chiusa in prigione. E lei risponde: no, non mi ricordo più niente. Questa consorella dice: ma non sei mica una vecchia rimbambita, non hai neanche 35 anni, non puoi dire che non ricordi niente, hai la testa ancora lucida che funziona. E lei dice: no, non ricordo più niente, perché ho chiesto a Dio e alla Madonna che mi facessero la grazia di dimenticare e me l'hanno fatta, per cui non ricordo più niente. Perché se una cosa non è completamente dimenticata, non è neanche completamente perdonata. Ed è vero, verissimo. Se questo l'ha capito Bernardetta di Lourdes, non mettiamo in dubbio che l'abbia capito Dio e che l'abbia fatto Dio da sempre. San Francesco di Sales, vescovo, un giorno gli si presenta un signore molto anziano e si confessa, questo signore anziano, dal vescovo, e poi l'ha autorizzato anche a raccontare il fatto, senza ovviamente stare a svelare i peccati. Alla fine della confessione, dopo tanti anni che non si confessava, probabilmente ne avrà anche combinate di grossi, a bruciapelo chiede al vescovo: scusi signor vescovo, e adesso, dopo che ha sentito tutti questi miei peccati, che cosa pensa di me? Francesco di Sales risponde: io penso che ho davanti a me un santo. Questo signore, meravigliato, si inalbera un po', dice: che santo? Con tutto quello che ho fatto, le ho raccontato, appena finito di raccontarle la mia vita traviata, che santo? E San Francesco di Sales dice: ma guardi, quello era lei prima dell'assoluzione dei peccati. Prima era così, ma adesso i suoi peccati non ci sono più. Lei è perdonato, lei è un santo. Allora, i santi ci insegnano delle cose elementari, importantissime, ma le abbiamo capite? Ci crediamo? Ecco, Dio, che è più grande dei santi, queste cose ce le ha dette e ridette in continuità, dalla prima all'ultima pagina della Bibbia. Ma l'abbiamo capita la suonata? Ossia, quando noi arriveremo davanti al tribunale di Dio, i nostri peccati non ci saranno più, perché sono già stati perdonati, dimenticati. Pensate, concludo, forse anche questo vi può in qualche modo dare uno spunto per credere, se anche qui tra noi uomini voi avete un debito, poi lo pagate. Se qualcuno vi viene a dire: ti ricordi che hai un debito? No, guarda, il debito non c'è più, perché io l'ho pagato, il debito non c'è più. Io sono in pari coi debiti, io sono un uomo che non ha dei debiti, perché quando un debito è pagato non c'è più il debito. C'era, ma non c'è più. E allora si dice: ma come sarà il giorno del giudizio? Dipende da noi se vogliamo andare su come amici di Cristo, come figli del Padre, o vogliamo andare su da nemici per combattere Dio anche nell'aldilà. Il giudizio di Dio, ricordate una cosa, ma è importante, importante, importante. A differenza di come giudichiamo noi uomini qui in terra, sia dando dei pareri sul nostro prossimo, sia come ci si comporta nei tribunali, il giudizio degli uomini è prendere l'uomo colpevole, giudicarlo mentre è colpevole, e ovviamente si tira alla conclusione: è colpevole, merita di essere condannato, castigato. Questo è il giudizio degli uomini. Quello di Dio è sempre diverso. Dio prima perdona e poi giudica. Se perdona e cancella i peccati e poi giudica, quale sarà la conclusione del giudizio di Dio? Quella che dava San Francesco di Sales dopo aver assolto un peccatore: se t'avessi giudicato prima saresti stato un gran disgraziato, ma visto che vuoi un mio parere adesso che sei già stato perdonato e assolto dai tuoi peccati, io concludo dicendo veramente, sinceramente, io ho davanti a me un santo. Quando noi andremo davanti al tribunale di Dio saremo dei peccatori perdonati, quindi dei santi, e il giudizio di Dio che c'è, sarà un giudizio di piena approvazione, ci dirà, vai in paradiso perché sei un santo, il peccatore che eri una volta non esiste più. Qualcuno potrebbe giustamente obiettare, ma se arrivassimo tutti puliti, perfetti davanti al tribunale di Cristo, la cosa ci convince, ma è che si muore imperfetti, qualcuno muore improvvisamente, forse aveva ancora dei conti in sospeso, insomma si presenta lì, non è che sia tutto perdonato, forse questa improvvisata l'ha trovato spiazzato. Si parla giustamente di purgatorio, non è che facciamo una grande trattazione, saremo anche brevi se volete. Allora, la Santa Chiesa ci insegna anche nell'ultimo concilio una verità vecchia. Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione dogmatica sulla Chiesa, afferma semplicemente questo. La Chiesa di quelli che sono in cammino, ossia la Chiesa qui, di noi che siamo ancora qui in terra in cammino verso il paradiso, fin dai primi tempi della religione cristiana ha coltivato con una grande pietà la memoria dei defunti, e poiché santo e salutare è il pensiero di pregare per i defunti perché siano assolti dai peccati, ha offerto per loro anche dei suffragi, ossia uno che muore può trovarsi nell'aldilà non del tutto preparato, pronto, santo, perfetto, pulito, a posto. Che succede? Diciamo pure, anticipo le immagini, fa un po' di anticamera. È nato Settimino e farà un po' di incubatrice, ma notate che in queste immagini anticamera e incubatrice non c'è niente di tremendo, non siamo tra le fiamme in mezzo ai diavoli infilzati dai forconi, per cui bisogna anche dire, ma cos'è questo purgatorio? Allora, dobbiamo mettere una pietra sopra un purgatorio tutto fuoco e fiamme, come forse abbiamo in testa. Fino al secolo XII, il 1100 d.C., purgatorio era un aggettivo, si parlava di pene purgatorie, cioè di pene che purificano, che puliscono uno che eventualmente arriva di là con un po' di sporco addosso, con un po' di peccati addosso. Io credo che fu uno sbaglio, non solo grammaticale, cambiare questo aggettivo purgatorio in un sostantivo, perché e perché ne è venuto fuori un luogo, una prigione con tutti gli orrori E qui cito un canto che ho sentito cantare qui in Lombardia, stampato su dei libri di chiesa, di alme gementi fra vindici ardor, di anime che gemono giù nel fuoco vendicativo, acceso da Dio ovviamente, quindi anime arrostite dal fuoco. Anche quando si parla del fuoco, ne parleremo più distesamente quando parleremo dell'inferno, ma vi anticipo già qualcosa. Non pensiamo al fuoco della fiammella del gas che abbiamo lì in cucina o del nostro focolare. Se ci sono delle anime che sono spirituali, come fanno a soffrire, a bruciare o ad essere purificate dal fuoco? Il fuoco brucia della materia, non lo spirito. Quindi non è il fuoco di casa vostra, quello dei roghi. Diciamo solo questo, poi specificheremo meglio. Allora, il purgatorio è una realtà che noi non abbiamo mica capito del tutto. Diciamo qualche cosa, tanto per aggiustare forse qualche idea che riguarda la nostra fede. Il mistero del purgatorio è un mistero di maturazione pasquale. Ossia, bisogna passare dal peccato alla vita nuova del Cristo risorto. Il purgatorio è un mistero di maturazione. Dico di più e poi mi soffermo con un paio di esempietti. È l'ultimo tocco estetico prima di entrare alla vita eterna. Facciamo un esempio familiare a casa vostra. Allora, noi alla fine della vita dovremmo nascere maturi per il paradiso. Siamo stati concepiti il giorno del nostro battesimo in Dio, nell'utero di questa comunità cristiana, la Santa Madre Chiesa. Alla fine della nostra vita dovremmo aver compiuto i nostri 9 mesi di gravidanza e venire al mondo e vivere alla luce, vivere all'aperto, con una maturità capace di affrontare questo nuovo stato, nuovo stadio di vita. Voi sapete però che nascono anche i prematuri, diciamo i settimini, senza voler stare a fare i conti di tutti i mesi, di tutte le possibilità. Che fa oggi la medicina moderna? Per queste persone che nascono premature, ha preparato delle attrezzature, un luogo dove possono recuperare quelle settimane, quei mesi che avrebbero dovuto vivere nell'utero materno per maturarsi completamente. Questo luogo viene chiamato comunemente l'incubatrice, e ben vengano le incubatrici se fanno sopravvivere dei bambini nati prematuri che diversamente sarebbero morti. Si è detto anche il purgatorio è l'ultimo tocco estetico prima di entrare nella vita eterna, prima di andare in paradiso, e qui passiamo ai vostri figli quando sono più grandi. Tuo figlio sta per uscire per andare dall'amorosa. Lo blocchi, lo prendi per la giacchetta o per la camicia lì sull'uscio di casa e dici fermati un momento che sembri il figlio di nessuno. Ma non vedi che hai ancora i pantaloni aperti? Ma non vedi che hai i capelli su dritti? Vieni qui, pettinati, dai che ti pettino io. C'hai la cravatta al collo come uno che ha il cappio per andare a impiccarsi. Fermati un momento che ti aggiusto, diversamente mi fai fare delle figure da nascondermi sottoterra. Freni il figlio che sta correndo verso l'amore, verso la sua ragazza. Gli fai perdere qualche minuto, ma lo fai perché arrivi presentabile, pulito, perché sta ragazza non dica ma che famiglia ha tuo uomo che mi viene a cercare, è venuto qui che è un disordinato di prima qualità. Torniamo al pensiero del purgatorio. Forse tutti noi possiamo arrivare di là un po' impreparati, nasciamo prematuri, non siamo cresciuti abbastanza per diventare della statura adulta per passare da questo mondo al Padre. Il purgatorio è Dio che, come una madre provvidente, ci fa fare qualche giorno, qualche mese di incubatrice con tutto il sostegno alla nostra debolezza, perché possiamo finire la nostra maturazione per entrare finalmente in paradiso fatti e finiti. È Dio che ci ferma lì alla porta del paradiso dicendo guarda aspetta che ti do un colpo, ti do una pettinata, hai ancora i capelli su dritti per lo spavento della morte, ti pettino ben bene, ti metto a posto la cravatta, ti do un aggiustato e così entri e non fai la brutta figura. In paradiso sono dentro tutti belli messi in ordine. Questo può essere, se volete, con immagini discutibilissime, umane, il concetto del purgatorio. È Dio amore che ci dà un tempo supplementare per finire di mettere a posto la nostra situazione ed entrare a testa alta in paradiso. Leggo da un libro sul purgatorio, il titolo è Trattato del Purgatorio, al capitolo secondo. È stato scritto da Santa Caterina da Genova, non Santa Caterina da Siena, Santa Caterina da Genova, che è morta nel 1510. Voi sapete che quando la Santa Madre Chiesa proclama uno beato, lo dichiara santo, prende in considerazione, fa un'analisi accurata e dettagliata anche dei suoi scritti, perché non ci siano dentro delle cose contro la fede. Ecco, questa santa scrive, vi leggo poche righe: non credo che dopo la felicità dei santi in paradiso possa esistere una gioia paragonabile a quella delle anime del purgatorio. Ossia, dopo la gioia piena dei santi in paradiso, le persone più contente sono le anime del purgatorio. Ed è anche abbastanza logico, non c'è difficoltà a credere. Sono già fuori dal pericolo di andare all'inferno, sono sicure che vanno in paradiso. Sono un passo più avanti di noi per andare verso Dio, sono lì, nell'anticamera del paradiso. Dicono, sarà questione di giorni, di anni, ma il paradiso ce l'ho assicurato. Volete che non siano contenti? Noi qui in terra abbiamo ancora, purtroppo, la triste possibilità di disdire tutto, di allontanarci da Dio, di andare all'inferno. Le anime del purgatorio questo rischio non ce l'hanno più. Noi qui siamo ancora in questa valle di lacrime, con tutti loro di là sono lì, si sentono amatissime da Dio, che le sta aiutando a fare gli ultimi preparativi per entrare definitivamente nella famiglia di Dio, nella vita eterna. Allora, vorrei dire una cosa, ma capitemi bene, non stravolgete il mio discorso, perché qualche volta qualcuno stravolge tutto. Se voi andate a vedere sulle agende delle messe, delle intenzioni di messe nelle parrocchie, dal 1 gennaio fino al 31 dicembre, rischiate di fare questa triste sorpresa. Tutti i giorni, tutte le messe hanno un'intenzione di messa a suffragio di la crocettina davanti il defunto Giuseppe, la defunta Giuseppina, per i genitori defunti, per le anime del purgatorio, per quello lì, il nostro collega che è morto. Insomma, tutti i giorni la gente dice, dite messe per i morti, intercedete per i morti. Io provo a dire la mia, ma scusate, se come dice questa santa, dopo la felicità dei santi in paradiso non esiste una gioia così grande, paragonabile a quella delle anime del purgatorio, se stanno meglio di noi, è giusto sì che facciamo delle preghiere, celebriamo delle messe, facciamo dei suffragi, l'abbiamo letto prima dalla Costituzione dogmatica sulla Chiesa al numero 50, quindi le cose sono state dette chiare. Ma io mi chiedo, tuo figlio che ti dà 100.000 problemi, che non lavora, non studia, fa il vagabondo, frequenta delle compagnie poco buone, forse è su una strada sbagliata, ma non è più a rischio di tuo padre o di tua madre che sono in purgatorio, o forse sono già anche in paradiso? Allora io non dico, smettiamo di dire delle messe per le anime del purgatorio, no, ma incominciamo a dire delle messe per noi che siamo qui ancora sul campo di battaglia, per le coppie in crisi e per quelle che vogliono abortire e per quelli che non rigano dritto e per quelli che odiano e per quelli che si accoltellano e per quelli che sono conciati male. Voi dite, come facciamolo? Ma facciamo almeno 50-50. Diceva un mio amico prete una battuta, forse non so neanche se è il caso di dirla, ma ormai la dico. Diceva, la pentola del minestrone nella mia canonica bolle sempre con il fuoco del purgatorio. Dicevo, come mai? Sì, perché io vivo con le intenzioni di messe per le anime del purgatorio, insomma quelle 15, 20, 50 mila lire che mi danno ogni messa, vivo con quelle, quindi io vivo, diciamo, a spese delle anime del purgatorio, il fuoco che fa bollire i tegami in casa mia è il fuoco delle fiamme del purgatorio. Una battuta, ma io dico allora, ritornando a noi e poi leggendo anche un brano della parola di Dio per concludere seriamente. ben vengano i suffragi per i defunti, ma ben vengano le messe celebrate per la conversione dei peccatori che siamo noi, perché Dio ci mantenga nella sua amicizia, nella sua grazia, perché a questo mondo le persone si convertano al bene, piantino lì di far del male, di fare delle carognate. Allora, io non ho detto non esiste purgatorio, non bisogna fare suffragi, preghiere, messe per i defunti. Non l'ho detto, ho detto bisogna, è dottrina della Chiesa, è verità. Ma mi dico, ma non bisogna fare almeno altrettanto e forse anche qualcosina in più per gli altri cristiani che sono qui ancora più esposti al rischio della perdizione di quanto non lo siano le anime del purgatorio? Ed ecco allora, come si starà di là? C'è già il libro della Sapienza, l'ultimo libro dell'Antico Testamento, e dice delle cose splendide. L'abbiamo sentite leggere alle messe dei funerali, ma forse avevamo altro per la testa. Leggo. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. La loro speranza è piena di immortalità. Coloro che sono fedeli a Dio vivranno presso di Lui nell'amore, perché grazia e misericordia sono riservate ai Suoi eletti. Allora, i nostri defunti che ci hanno preceduto, noi, quando andremo al di là il giorno della nostra morte, cosa troveremo? Che cosa ci ha riservato Dio? Che sorpresa ci farà Dio? È scritto qui, grazia e misericordia sono riservate ai Suoi eletti. E se noi vogliamo essere con Cristo e con Dio, noi siamo gli eletti. Perché ce l'ha già detto, voi siete stati scelti, purificati, perdonati, salvati. Voi siete amati da Dio e eletti. Ecco allora, quelli che vogliono andare a stare con Dio, perché Dio vuole tutti in paradiso, troveranno di là non fuoco, non tizzoni, non diavoli, non forconi, ma grazia e misericordia, ossia il massimo dell'amore di Dio, che non vedeva l'ora di potersi incontrare con noi, come quando un padre attende che gli nasca un bambino per poterselo prendere tra le mani e stringerselo con amore, diciamo, infinito. Chi di voi è padre e madre sa l'emozione del poter finalmente stringere tra le braccia un figlio che è venuto alla luce. Questa gioia paterna e materna, purificata e moltiplicata all'infinito, è la gioia del Padre Eterno che ci corre incontro, ci abbraccia e fa per ognuno di noi una grande festa. Grazia e misericordia sono riservate agli eletti di Dio. Fratelli, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Parliamo dunque del giudizio universale, facciamo due momenti di riflessione su questo fatto. E anche qui, per piacere, non mettetevi le mani nei capelli, che non è proprio il caso. Allora, gli uomini saranno giudicati da un fratello, da un uomo. È scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 5. Il Padre, infatti, non giudica nessuno, ma ha rimesso ogni giudizio al Figlio, Gesù Cristo, nostro fratello uomo, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Ecco allora, noi saremo giudicati da Gesù Cristo. Vi dico subito, ricordatevi che Gesù Cristo, per salvarci, ha dato la vita per noi morendo sulla croce. Teniamolo presente questo. Perché alle volte, quando si parla del giudizio, sembra quasi che il Gesù Cristo che ci deve giudicare sia uno al quale non interessa per nulla la nostra salvezza, la nostra dannazione. È semplicemente lì un dipendente che fa delle somme, delle sottrazioni, e come non me ne abbiano a male, certi giudici dei tribunali applicano la legge, ma a loro non fa né caldo né freddo se vai a casa tua o vai a finire in galera. No, Gesù Cristo è interessatissimo, è coinvolto in assoluto, gli siamo costati la vita, quindi ci ha infinitamente cari. Allora diciamo che venuta gloriosa di Gesù e giudizio universale saranno un solo avvenimento, l'ultimo della storia, il compimento totale e definitivo della divinizzazione dell'uomo, è l'ultimo tocco perché l'uomo sia perfetto, sia da paradiso. Sarà il giorno della grande ricompensa. Lo leggiamo in Matteo 5,12. Grande sarà la vostra ricompensa nei cieli. Quindi andremo a tirare la paga, la ricompensa. E dice, ma allora lì, arrivare da buoni o da cattivi, amici di Cristo o bestemmiatori, è la stessa cosa? No, no. No, no, sono due cose ben distinte e diverse. Non facciamo confusione tra il bene e il male, tra l'essere amici di Dio e essere nemici di Dio. Sono situazioni diametralmente opposte. Leggo alcuni brani, per esempio dalla seconda lettera ai Corinti, capitolo 5. Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, ciascuno per ricevere la ricompensa delle opere compiute finché era nel corpo, sia in bene che in male. Dalla lettera ai Romani, capitolo 2, Dio renderà a ciascuno secondo le sue opere la vita eterna a coloro che, perseverando nelle opere di bene, cercano gloria, onore e incorruttibilità. Sdegno e ira contro coloro che per ribellione resistono alla verità e obbediscono all'ingiustizia. E ancora nella lettera ai Romani, capitolo 14, tutti infatti ci presenteremo al tribunale di Dio, quindi ciascuno renderà conto a Dio di se stesso. Queste sono verità della fede. Ma vi prego, non incominciate a dire, vedi che allora lì sarà un giorno veramente di ira, giorno tremendo, Davide, la Sibilla, insomma ti ricordi quel dì e sire che cantavano all'impazzata nelle messe da morto quasi tutte le mattine? No, quel primo pezzetto del dì e sire era tutto pagano, dopo diventava bello cristiano quando parlava di Cristo, della misericordia, del Salvatore e di tutto quello che ha fatto per portarci in paradiso. Allora, risulta chiaro che saremo giudicati sulle opere alla luce del comandamento di Dio. E dice allora, qual è il comandamento di Dio? Leggiamo nella prima lettera di Giovanni al capitolo 3, questo è il comandamento di Dio. Che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri secondo il precetto che ci ha dato. Voi notate che al primo posto l'opera che dobbiamo fare, l'opera con la O maiuscola, è credere nella persona di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Lo troveremo anche sotto, poi citando il Vangelo di Giovanni al capitolo 6. Gli ebrei chiedono a Gesù che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio, al plurale, erano quelli che dicevano noi ci salviamo con le opere. E Gesù rispose, questa è l'opera di Dio, una opera, credere in colui che Dio ha mandato, credere in me. Voi vedetelo che la prima opera da fare è credere in Gesù Cristo. Poi vedremo, quando uno ha lasciato entrare Cristo nella sua vita, farà solo opere buone se segue Cristo, perché Cristo fa solo opere buone. Allora diciamo, credere in Gesù Cristo e amare i fratelli sono le opere che ci seguiranno da questo mondo all'aldilà. Ne consegue che il primo peccato che ci porta alla condanna, speriamo di no, ma eventualmente, è il rifiuto ostinato di credere in Cristo. Voi dite, ma se nessuno ne sente parlare di Cristo, il povero nero dell'Africa o quello che è vissuto in cima al Tibet deve andare all'inferno perché non ha creduto in Cristo. Qui si dice il rifiuto ostinato di credere per coloro a cui è stato annunciato Cristo, il Vangelo. Hanno capito che è così, hanno capito che questa è la volontà di Dio, che questa è l'unica strada della salvezza e pur avendo capito bene si ostinano a dir di no perché non vogliono. Non le persone che non ne hanno saputo nulla, di queste ne parleremo nel secondo momento. Allora, allora questo rifiuto ostinato di credere è quello che il Vangelo chiama il peccato contro lo Spirito Santo, che non sarà perdonato né in questa vita né in quell'altra. Quante persone sono venute da me a dire: ma mi spieghi un po' cos'è questo peccato che non sarà perdonato né in questo mondo né in quell'altro? Allora Dio non perdona sempre, allora Dio non perdona tutti, ci sarà almeno un peccato che Dio non perdona. No, Dio perdona sempre tutti e tutti i peccati. Allora in cosa consiste questo peccato contro lo Spirito Santo che non sarà perdonato né di qua né di là? Il peccato contro lo Spirito Santo è l'orgoglio dell'uomo che si intestardisce come Satana e non vuole essere perdonato. Allora, non è Dio che non perdona, è l'uomo che dice: io non voglio essere perdonato, né adesso né mai. Allora, è l'uomo che vuol tenersi il suo peccato con le sue conseguenze, non Dio che non lo vuole perdonare. L'uomo dice: so che questo è un peccato, so che Dio me lo perdona e io non voglio essere perdonato. Allora, è un peccato che non sarà perdonato né in questo mondo né in quell'altro, non perché Dio non perdona, ma perché l'uomo che ha peccato non vuole il perdono di Dio e si tiene il suo peccato e non lo molla. Dio ci è stato presentato da Gesù Cristo e da tutta la Bibbia come un Dio di infinito amore per noi. Quindi non mettiamo mai nessun atteggiamento di cattiveria in Dio, se non lo offendiamo villanamente e profondamente. Leggo dal Vangelo di Giovanni al capitolo 3, sono parole di Gesù. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, per condannare, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Ecco, allora Gesù Cristo è venuto per salvare tutti, per non condannare, per non perdere nessuno. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ecco, per uno che ha incontrato Cristo, ha ascoltato il suo Vangelo, ha capito bene, il fatto di rifiutare, di lasciarsi salvare da Cristo, diventa per lui un motivo di condanna. Perché? Se Gesù Cristo è il Salvatore, uno che rifiuta il Salvatore può essere salvato? No. Se Gesù Cristo è la salvezza e io rifiuto Cristo che è la salvezza, posso avere la salvezza? No. Il discorso è molto semplice. Ecco allora che Cristo è venuto per salvare tutti, è lui il Salvatore. Ma se uno rifiuta il Salvatore e la salvezza, è lui che non vuole essere salvato, proprio perché rifiuta il Cristo che ha conosciuto come Salvatore e come salvezza, e che rifiuta ha ragion veduta. Leggiamo ancora dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 5. In verità vi dico, è Gesù che parla: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha già adesso la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Quindi chi crede in Gesù, vive con Gesù e come ha insegnato Gesù, non va incontro al giudizio. Non c'è giudizio per quello lì, giudizio di condanna. Ancora, sempre dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 5, verrà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la voce del Figlio di Dio e ne usciranno. Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna? Da che parte vogliamo collocarci noi? Perché la scelta dobbiamo farla qui, oggi, tutti i giorni della vita. Vogliamo fare il bene o fare il male? Stare con Cristo o metterci all'opposizione combattendolo e odiandolo? Allora ci facciamo una domanda. Noi cristiani sappiamo queste cose, magari le sappiamo male, perché alle volte siamo proprio male catechizzati, il Vangelo lo conosciamo poco, l'abbiamo letto con una superficialità come fosse un libro di barzellette o Topolino. Ma diciamo, ma quegli altri, forse meno fortunati di noi, che non hanno mai sentito parlare di Cristo, che non hanno il Vangelo, che non hanno una comunità cristiana, insomma, quelli proprio lontani, lontani dalla Chiesa, dove si parla di queste cose. In quale situazione si trovano davanti a Dio? Facciamo un po' la lista: l'ignorante, il pagano, il non credente, l'ateo in buona fede, quello che è ateo perché proprio non ha trovato ancora le ragioni per credere, tutti coloro che non hanno avuto la fortuna di sentire la predicazione del Vangelo e di aderire a Cristo, ossia di credere. In che situazione si troveranno quando arriveranno davanti al tribunale di Cristo? E vi leggo dal Concilio Vaticano II, dalla Costituzione Dogmatica sulla Chiesa, il numero 16, per chi è pratico sa che in latino porta il titolo Lumen Gentium, Cristo è la luce dei popoli. Leggo questa bellissima frase che dà una consolazione, una visuale di salvezza, di santità, di redenzione per tutti, anche per i più dispersi, più disperati, più lontani. Leggo: Dio stesso non è lontano dagli altri che cercano un Dio ignoto nelle ombre e nelle immagini. E come Salvatore Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Infatti, quelli che senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa e tuttavia cercano sinceramente Dio, e con l'aiuto della grazia si sforzano di compiere con le opere la volontà di Dio, conosciuta attraverso il dettame della coscienza, possono conseguire la salvezza eterna. Allora, anche quelli che non conoscono Cristo, che non hanno mai sentito predicare il Vangelo, se seguono la loro coscienza, che è illuminata da Cristo, ricordiamoci sempre quella frasettina del capitolo primo, versetto 9 del Vangelo di Giovanni. Cristo è la luce che illumina ogni uomo, quindi ogni uomo in una forma misteriosa viene illuminato nella coscienza da Cristo Salvatore e dal suo Spirito. Dio vuole salvare tutti, in un modo o nell'altro. Tutti. E allora Dio si dà da fare perché tutti abbiano il necessario per essere salvati da Lui. Allora dice, beh, insomma, noi cristiani siamo però più fortunati perché le sappiamo queste cose, certo, e possiamo vivere con meno terrori, con meno angosce, perché sappiamo che un domani ci presenteremo davanti a Cristo che è morto per noi sulla croce, quindi ci ha dato una dimostrazione di un amore infinito. Andremo a finire nelle braccia di Dio che è il nostro papà da cui siamo nati, saremo immersi totalmente nell'amore di Dio. Sapere queste cose è già consolantissimo oggi, ci toglie tutti i terrori, gli spauracchi, tutte quelle angosce che la lettura del Vangelo deve togliere da noi. Non abbiate paura, ho vinto il mondo, io vi salvo tutti, sono parole che Cristo ci ha detto. Ecco allora che tutti gli uomini di buona volontà, cristiani e non cristiani, sono così riportati, allineati al medesimo punto di partenza per la seconda prova dell'ultimo giudizio. Su che cosa saremo giudicati? Se abbiamo accolto Cristo, se l'abbiamo incontrato, ce ne hanno parlato, quindi se abbiamo lasciato entrare Cristo in noi. Il pagano sarà giudicato se nella sua coscienza avrà lasciato entrare misteriosamente il Cristo luce, lo Spirito Santo che è vita di Dio. Quindi ognuno a modo suo, in due modi diversi, sarà giudicato se ha accolto Cristo Dio nella sua coscienza. Poi ci sarà il secondo tema d'esame, l'amore reciproco. Se ci saremo amati tra noi uomini e donne come Cristo ci ama, e perché Cristo ci ama, e perché dentro ognuno di noi c'è Cristo, e perché dentro nell'altro c'è Cristo. Santa Teresa di Lisieux, però mutuando questa bellissima frase da Santa Teresa d'Avila, da San Giovanni, da tutta la tradizione, in pratica dal Vangelo, perché il Vangelo di Matteo al capitolo 25, presentando la parabola del giudizio finale, ci dice la stessa cosa. Insomma, Santa Teresa di Lisio scrive: alla sera della vita saremo giudicati sull'amore, se avremo amato dando da mangiare, da bere, vestiario, riscaldamento, alloggio, aiuto ai malati, ai carcerati. Allora, saremo giudicati sull'amore concreto, quello alla portata di tutti: dare da mangiare, da bere, alloggiare quelli senza casa, vestire quelli che hanno bisogno di vestito, hanno freddo, visitare i malati, assistere i bisognosi, prendersi cura delle persone, delle loro necessità. Insomma, l'amore che avremo prodigato o rifiutato a ogni uomo. È morta di recente Madre Teresa di Calcutta. Non si è chiesta: questo è cattolico, questo non è cattolico, questo è indù, questo è musulmano, questo è della mia religione, questo è bravo, questo è buono. Non ha detto: questo se lo merita, questo è povero per colpa sua, questo è povero perché l'hanno depredato gli altri. Tutte queste sono chiacchiere che facciamo noi perché non abbiamo voglia di passare ai fatti. Lei ha detto: Cristo alla fine ci dirà: avevo fame, avevo sete, ero nudo, ero malato, tu mi hai amato, mi hai dato da mangiare, da bere, mi hai vestito, mi hai curato quando ero malato. Madre Teresa ha fatto questo. Non c'è bisogno di alta teologia, una cosa elementarissima, scritta lì nel Vangelo. Bisogna farla. Fare, finire di chiacchierare, di filosofare, fare queste cose. Cristo stesso ci avverte che al momento del giudizio molti tireranno fuori le loro tessere di praticanti. Io sono stato papa, vescovo, prete, ero dell'Azione Cattolica, c'ho qui la serie delle tessere, ero di un movimento, di un altro movimento, di più diremo: guarda che io sono venuto a messa, ho osservato il precetto tutte le domeniche, sono mai mancato a messa. Che risponderà Gesù Cristo a queste persone che hanno avuto le tessere, le appartenenze, la frequenza religiosa, ma poi non hanno fatto le pratiche d'amore concreto, aiutando i fratelli, il prossimo? Leggo dal Vangelo di Matteo il capitolo 7. Molti mi diranno in quel giorno, nel giorno del giudizio: Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato demoni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? Io però dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. Io non dico: stiamo freschi, vado a messa, allora non conta niente. Ho detto: Signore, Signore, ho pregato, sono andato a quelle riunioni in cui scacciavano i demoni, facevano i miracoli, sa, quando arrivano ci troviamo di 20.000. Insomma, se non è religione quella, leggiamo il Vangelo, può essere religione, ma anche può non essere religione. Leggo: molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetato, predicato, parlato nel tuo nome, cacciato demoni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? Io però dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. È lì che ci vuole Cristo. Non lo so, chiediamocelo. O ci vuole all'ospedale, o ci vuole a dare il pranzo a chi non ha mangiato, ad aiutare l'immigrato, dove ci vuole Cristo? A cercare sensazioni religiose? Sembra proprio di no. La vera religione è quella che ci lega a questo Dio, che è presente nel mondo in incognito, Gesù Cristo, che si identifica con ogni uomo sofferente. A nulla servono i 7 sacramenti, dal battesimo fino all'ultimo, se non ci portano a celebrare l'8° sacramento, che è il più importante di tutti, ossia il sacramento del fratello, del prossimo, ossia a incontrare Dio nell'uomo. Noi nel battesimo incontriamo Dio, diventiamo figli di Dio, certo, nella cresima, nel matrimonio, nell'eucaristia incontriamo Dio, lo mangiamo, ce lo mettiamo nel cuore. Sì, per farne che tutti i sacramenti sono grazie. Sono Dio che viene dentro di te, ti dice, adesso portami dal fratello bisognoso. Portami a incontrare tutti gli uomini e le donne di questo mondo, senza distinzione, buoni o cattivi, cristiani o non cristiani, se no i sette sacramenti non servono a nulla. La messa si divide in tre parti, diversamente da quello che si trova scritto su certi libri di liturgia. La liturgia della parola che si fa in chiesa, verissimo. La liturgia eucaristica che si fa in chiesa, benissimo. Poi dicono, la messa è finita, non è finita un bel niente. Incomincia la terza parte della messa, senza la quale non sono servite niente neanche le prime due. La liturgia della vita. Cristo ha detto, mangiatemi, bevetemi, adesso andate fuori e fate anche voi così, fate questo in memoria di me, andate fuori, fatevi mangiare, fatevi bere come ho fatto io con voi qui in chiesa, se no la messa non serve a niente. I sette sacramenti servono per celebrare l'ottavo sacramento, il sacramento del fratello, ossia a incontrare, adorare, servire Dio presente in ogni uomo, in ogni donna. Allora diciamo anche questo, mi sembra importante. Pochi uomini hanno incontrato Cristo e lo hanno conosciuto. Quelli prima di Cristo non l'hanno incontrato, al tempo di Cristo l'hanno incontrato in poche migliaia. Ancora oggi gran parte dell'umanità non ha incontrato Cristo attraverso la Chiesa. Però tutti, dal primo all'ultimo, da Adamo fino all'ultimo, hanno incontrato dei fratelli bisognosi d'aiuto, dei nemici da perdonare, e ricordiamo che tutti i fratelli bisognosi d'aiuto, di perdono, di pane, di acqua, di vestito, di cure, sono sempre stati e saranno sempre l'unico fratello con la F maiuscola, Gesù Cristo, che si identifica con ogni uomo e con ogni donna. Ero io che avevo fame nell'affamato, ero io che avevo sete nell'assetato, ero io nudo nella persona nuda. Lo dice nel Vangelo, qualunque cosa avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatto a me, e qualunque cosa non avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli non l'avete fatto a me. Allora, dico così, fuori testo. Prepariamoci il testo di esame del giudizio universale, che è un pezzettino di Vangelo dove si dice Cristo ci accoglierà in casa sua, ci darà da mangiare, da bere per l'eternità, curerà tutti i nostri dolori, le nostre piaghe, ci tirerà fuori dalle nostre galere, se noi qui in terra avremo tirato fuori lui dalle galere, dalla fame, dalla sete, dalla nudità, dalle malattie, lui presente in ogni persona che abbiamo incontrato. Dove c'è un uomo, dove c'è una donna, lì c'è Cristo, questo dice la nostra fede. E non è la stessa cosa per Cristo che una nazione soffochi l'altra oppure la aiuti, parliamo un po' in grande, che una nazione faccia la guerra o lavori per la pace, che equilibri la bilancia dei pagamenti esportando grano o vendendo armi. Quello che diciamo per le nazioni in grande vale poi per ogni singolo uomo nei suoi rapporti quotidiani e spicci. Non è la stessa cosa, sapete, dare da mangiare o affamare la gente, amare o odiare, fare un sorriso o fare la faccia contrariata e cattiva. Sono tutte cose fatte per Cristo. Su queste alla fine noi saremo giudicati. Cari fratelli, siamo andati un po' per le lunghe, ma credo che ne valesse la pena. Questa quarta parte sarà molto più breve. Allora, tutti noi saremo giudicati sull'amore concreto, quello vero, non desideri d'amore, ipotesi, potrei fare, mi sarebbe piaciuto, ho un grande desiderio, no, i fatti. I sistemi economici saranno giudicati sull'amore. Noi siamo sempre lì a sentirci tirare di qua e di là, per il PIL, prodotto interno lordo, i bilanci, i soldi, adesso la svalutazione, questo, quell'altro, sembra che non esista altro. Saremo giudicati sull'amore, noi politici, i nostri ministri, tutti. I partiti politici saranno giudicati sull'amore, anche i sindacati. Il Vangelo non è neutrale. Cristo non è neutrale, sta dalla parte del povero, dell'oppresso, diciamo del bisognoso, affamato, assetato, nudo, malato, carcerato. Anche la Chiesa sarà giudicata sull'amore, sul servizio e l'impegno in favore degli oppressi e degli sfruttati, e non sulle belle dichiarazioni dottrinali o sul codice di diritto canonico bello. Eh sì, ma quello non sarà testo di giudizio. Io, prete, tu, laico, giovane o adulto, saremo giudicati sull'amore, l'amore concreto, quello dei fatti. Pietro, in casa di Cornelio a Cesarea, proclama, leggo dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 10, Gesù Cristo ci ha ordinato di annunciare al popolo e di attestare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio. Chi sono questi vivi e chi sono i morti? I vivi sono coloro che saranno in vita al momento della venuta finale di Cristo, non sappiamo quando tornerà. I morti sono coloro che, già defunti, risusciteranno per il giudizio nell'ultimo giorno. Dobbiamo fare una precisazione. Gesù nel Vangelo nega che si possa fare distinzione tra vivi e morti. Esistono solo dei vivi. Se ci sono dei morti, con questo termine bisogna dire sono i dannati dell'inferno, quelli sono nella morte eterna, gli altri sono tutti dei vivi. La morte non produce dei morti, ma è solo un passaggio verso un'altra vita migliore, definitiva. I defunti, e si usa questa parola, forse sarebbe bello usarla più spesso, i defunti non sono dei morti, ma dei vivi, sono più vivi di noi, sono più vicini a Dio nel cammino verso Dio. Cosa vuol dire defunto, defunctus in latino? Defunctus vuol dire colui che si è liberato da un obbligo gravoso e spiacevole, colui che ha smesso di fare le sue funzioni in questa vita. Non è più uno in funzione, non è più uno attivo nel lavoro, è uno che è andato in pensione, è andato a riposare, a godersi la gioia delle sue fatiche. Quindi possiamo parlare abitualmente di vivi e di morti, tanto per capirci e per distinguere i nostri compagni di vita presenti. I vivi sono questi qui sulla terra e i poveri morti sono gli scomparsi, quelli andati al di là. Ma se vogliamo essere seri, quelli di là sono più vivi di noi, perché sono più in Dio di noi. Noi siamo ancora quelli che camminano verso la morte, almeno quella fisica. Noi siamo figli dei grandi inquisitori, noi siamo ancora allucinati dai roghi, dalle streghe degli eretici e dalle torture medievali. A noi, figli dei grandi inquisitori, l'idea del giudizio fa tremare le vene e i polsi, anche perché abbiamo trasposto tale quale il giudizio di Dio con le porcherie che abbiamo fatto noi nei secoli. Abbiamo giudicato le persone, le abbiamo bruciate, ammazzate, torturate. Si dice, se facciamo noi qui, Dio dirà, Dio di là farà uguale o anche peggio, visto che è onnipotente. Ma Dio ci ha detto, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, pregate per quelli che vi maltrattano. Non giudicate nessuno, non ammazzate, non uccidere. Non possiamo prendere spunto nel fantasticare il giudizio di Dio dai giudizi che abbiamo fatto noi qui in terra, che sono esattamente il contrario del Vangelo e della volontà di Dio. Ritorniamo alla comunità primitiva, quella illuminata dalla fede e dalla predicazione degli Apostoli, la quale interpretò il ritorno di Cristo come un avvenimento carico di speranza e di gioia, come il ritorno dello sposo per la sposa. Cristo è lo sposo, la Chiesa, i cristiani, i credenti, quelli che aderiscono a Lui, sono la sposa. Non posso dilungarmi, ma permettete una battuta. Ma cosa ne pensate voi di una sposa che tutto il giorno vive nella paura al pensiero che la sera torna a casa il marito? Come minimo non le vuol bene. o peggio ancora, quel marito lì sarà un criminale. Ma Cristo, quello che aspettiamo noi, non è un criminale, è l'amore di Dio. Allora, se io, cristiano, io chiesa, ho paura del ritorno di Cristo, che è un amore infinito, ma io lo amo sto Cristo, lo conosco. Dobbiamo trovare la dolcezza e l'ottimismo di questa espressione rivelata, verrà a giudicare i vivi e i morti, che vuol dire verrà a salvare i vivi e i morti, perché come abbiamo detto all'inizio, il tuo giudizio, Signore, è amore che salva. E affermare il giudice è Gesù è molto più rassicurante e consolante che se dicessimo il giudice è la mia mamma. Perché Gesù ci ama tutti infinitamente di più delle nostre mamme. A me è capitato un giorno a cena, a casa mia, c'era un prete anche pesante, a cui ho detto delle parole improprie che non ripropongo qui. Perché diceva, ah, se io sapessi che a giudicarmi c'è sulla mia mamma, io morirei tranquillo, qui, immediatamente, questa notte. Perché la mia mamma farebbe anche carte false pur di tirarmi dentro in paradiso, perché la mia mamma mi ama veramente. Gli ho detto, ma tu sei fesso. Gesù Cristo ti ama infinitamente più della tua mamma. Gesù Cristo mi ama infinitamente più della mia mamma. Io voglio Gesù Cristo a giudicarmi, non la mia mamma, perché Cristo è il mio Salvatore e mia madre no. Perché Cristo è un Dio che mi ama infinitamente, mia madre no. E ho ripetuto lui, ripeto stasera quella frase del Vangelo. Voi genitori che siete cattivi sapete dare cose buone, immaginatevi Dio. Non tiriamo fuori queste frottole, questi sentimentalismi viscerali, la mia mamma, con tutta la buona pace per le nostre mamme vive o defunte che siano, rispettandole, riconoscendo che ci hanno amati moltissimo. Ma non offendiamo Dio dicendo Dio tirati via che preferisco la mia mamma. È una bestemmia, credevamo di fare una sparata religiosa, è una bestemmia. Il giudizio quindi è perdono e premio per i vivi e per i morti. Dalla festa eterna, saranno esclusi solo coloro che ostinatamente si saranno rifiutati di credere, di amare e di lasciarsi amare, quelli che non vogliono entrare nell'amore di Dio, che non vogliono entrare in paradiso. Leggo dalla lettera di Paolo ai Romani, capitolo 8, un testo che è splendido. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? Gesù Cristo, che è morto, anzi è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Beati coloro che credono a questo amore. Beati coloro che vivono lo stupendo dialogo che chiude l'Apocalisse e chiude l'intera Bibbia. Concludo anch'io con queste parole splendide, non ne ho trovate di migliori. Sì, verrò presto. Amen. Vieni, Signore Gesù.